si perderà nel buio al calare della sera, questo giorno poi domani che sarà? Sei diverso oppure uguale, passa il tempo, con sé lo porterà. Confondere le notti per un sogno che si avvera, non sapere che cosa resterà. Se ogni volta spunta l'alba e nel sole poi si perderà. Vola poi la vita, finiscono i colori, che cosa ne sarà di noi? Se hai vissuto cose perse mai riavute, mentre il tempo se ne va. Sarà pieno di luci, di stagioni e degli amori, viene il buio e li nasconderà. Non li vedi e sai intuire nel futuro, poi cosa ci sarà? Il colore veste i fiori e sentire poi gli odori, se si sceglie non sai se basterà. A non togliere i sospiri nella storia, che poi continuerà. Scenderà nel cuore che poi spera ciò che gli occhi non vedranno mai, per averlo nella sera della vita poi capire che sarà. Se a crearli è un dio minore, questo è il senso del dolore, chi la luce non ha visto mai. Il cammino della vita lo percorri e lo conoscerai. Il vivere la gente e leggerne la mente, poi col tempo che passa lo vedrai. Con l'udire di ogni passo resta dentro, e poi rinascerai. Chi non vede negli umori può sentire, noi non lo sapremo mai, se nel buio abbiamo perso quella strada che poi ci porterà. In un altro modo di capire ciò che gli occhi non vedranno mai, quella luce di una strada da seguire per un'altra realtà.